9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 15 settembre. Oggi tentiamo di capire qualche cosa con osservatori e protagonisti del dibattito e del confronto interno al Partito Democratico. Sapete che la nostra idea in questa trasmissione è di non occuparci di politica quando sono parole chiacchiere, e questo è il motivo per cui non faccio troppe trasmissioni, anzi il meno indispensabile, su tutto quello che sta avvenendo nel centrodestra da questa estate in poi, non per non parlarne, non per sottolinearne la difficoltà che si vede nei sondaggi, per così dire, non per non sottolineare che il paese avrebbe bisogno di ben altro, perché questo lo diamo abbastanza per scontato, anche se fa bene ripeterlo, ma perché qui l'impostazione è di tentare di parlare di problemi concreti giorno dopo giorno, tentiamo di farlo, dalle tasse all'economia alla produttività. E voi mi potreste dire, vabbè, e allora perché oggi ti vuoi occupare del PD? Perché vuoi mettere l'accento sulle difficoltà? No, perché il problema è quello di aiutare noi tutti e di sentire voi a casa, quindi chiamate l'800240024, a capire qual è il termine reale, oggettivo e rispettoso da parte nostra del confronto interno al PD, perché siamo un giorno in cui c'è stata la chiusura con l'intervento di Bersani della festa del PD, e sì, i giornali si sono lette cose che immagino molti esponenti e dirigenti del primo piano del PD possano considerare come giusto e fisiologico, un po' montate dai giornalisti, però insomma siamo tornati a una dinamica molto aperta, perché la Repubblica, quindi non un giornale particolarmente ostile per definizione, voglio dire, al PD, il titolo della Repubblica il 14 settembre era Veltroni, per esempio, sfida aperta a Bersani, un documento sul virgolette PD tradito, asse con gli ex PP, i fedelissimi può ritentare da premier. Abbiamo letto poi di un documento che girava con il numero di firme in crescita dell'ex appartenente ad Area Democratica, alla corrente del partito veltroniano, Dario Franceschini, considerato adesso non più un rappresentante di questa corrente ma un bersaniano, ribattere ma che saranno ben pochi quelli ex PP che firmano questo documento. Si è letto che comunque i giornali che avevano annunciato tentativi addirittura di dar vita a gruppi autonomi sulla scia di Futura Libertà di Fini, i giornali erano andati molto avanti con la fantasia, mai pensato ad un gruppo autonomo, quindi smentite ufficiali di un PD in cui Bersani, questo è il titolo del Messaggero, sempre dello stesso giorno, il 14 settembre, cercava la pace interna, ma Veltroni avverte il partito e ai minimi. Altri dirigenti veltroniani che hanno detto appunto il più grande regalo a Berlusconi è un partito nei sondaggi, insomma al 26%. Se andiamo a vedere oggi i titoli di alcuni quotidiani, troviamo, ne prendo uno, il titolo del Messaggero a pagina 5, Bersani si candida alle primarie avanti sulla linea del congresso, però resta anche qui un braccio di ferro sul testo Veltroni-Fioroni critica al leader. Se andate, e questo è ovviamente più comprensibile, sui giornali che fanno polemica dichiarata e pregiudiziale al PD, Libero di oggi c'è un articolo di Risa Calessi, furia di Fassino su Walter, aperte virgolette, mi sono rotto il non leggo il resto, che comunque sono i puntini, i veltroniani lo accusano, accusano Fassino di essere passato con Bersani, e Piero sbotta, il segretario pronto a candidarmi alle primarie. Il titolo dell'Unità di ieri era un titolo che diceva Veltroni, il PD cambi, seconda riga Bersani, ma divisi non siamo credibili. E quindi insomma ci è sembrato, facendo tara dell'eccesso dei giornali che ovviamente amano rappresentare casino e confusione del centrodestra, un po' di bella polvere anche nel PD, però insomma ci sono due questioni. Quello che sembra chiaro ed evidente è che Veltroni, almeno è sembrato a me, dica questo è un partito nato con una vocazione maggioritaria che tendeva all'atto di nascita a mettere insieme più culture, scommettendo davvero su questo e scommettendo che se non fosse stata la prima sarebbe stata la seconda, e se non sarebbe sarebbe stata la seconda, comunque la terza, correggendo, certo, se non avessimo vinto, ma con un obiettivo che doveva rimanere quello di avere una vocazione maggioritaria in quanto partito, non in quanto componente socialdemocratica di un'alleanza che fa la somma del Nuovo Ulivo, cioè mettendo insieme cattolici distinti da quelli che stanno nel partito sinistra antagonista e così via. L'impostazione che è emersa chiaramente invece con Bersani di fronte alla difficoltà di questo governo, e quindi dovendosi preparare comunque a un'accelerazione che potrebbe portare, e presto tardi porterà, alla fine anticipata di questa legislatura, su cui nessuno scommette più una lira, è quella di tornare appunto al Nuovo Ulivo, di tornare a riscoprire l'asse su cui poi in definitiva è stato l'unico con cui la sinistra negli anni passati ha battuto Berlusconi, cioè quello appunto dell'Ulivo, dell'alleanza tra distinti, che inevitabilmente torna a riaccentuare poi la natura più socialdemocratica, più socialista, moderna, quello che volete, ma insomma più socialista e socialdemocratica del PD, e quindi finisce per mettere in difficoltà gli esponenti di Talone Cultura, che su questo non ci si ritrovano, Beppe Fioroni e molti dell'ex PP e Margherita, che a quel punto dicono: vabbè, ma se dobbiamo fare l'articolazione con gli altri, allora ognuno si ricerca le culture di casa propria. Queste sono più o meno le cose che ho capito io. Poi trasversalmente a questo ci sono almeno due altre questioni. Una, che è quella posta, lo avete appena sentito al giornale radio, dal sindaco che ha con questo fatto la maggiore scalata all'ascesa di popolarità e di notorietà nei sondaggi nazionali, cioè il sindaco di Firenze Renzi, che non coglie, cioè che coglie tutte le occasioni per dire: signori, questo Bersani non lo capisco, è un vecchio, è da rottamare, questi sono stati i verbi che ha usato, poi li ha corretti, però insomma è una questione che invita a fare meno formule, quella del sindaco di Firenze, e però ha anche implicitamente, anzi esplicitamente, una questione di non credibilità di una classe dirigente che viene considerata vecchia, sconfitta, con poco da dire. Ci sono poi anche altre questioni che riguardano l'OPA, come dire, sono lanciata alle primarie da Nichi Vendola da una parte, il ruolo che potrebbero avere altri personaggi come Chiamparino, sindaco di Torino, però insomma cerchiamo di capire soprattutto su questa impostazione, quella maggioritaria e quella delle alleanze, quali sono i termini della questione e che cosa ci aspetta nel dibattito e nel confronto, in questo passaggio delicato in cui in definitiva poi essere credibili di fronte agli elettori è anche una carta per tentare di far scendere Berlusconi nei sondaggi e di acchiapparlo. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo con noi Walter Verini, che è deputato del PD, del componente della direzione del partito appunto di Area Democratica, che è uno stretto collaboratore di Veltroni, come tutti sappiamo. Grazie a Walter Verini, buongiorno. Buongiorno a voi. E poi Matteo Orfini, responsabile cultura della segreteria nazionale del PD. Chi conosce da anni Matteo Orfini, che è un 36enne, sa che insomma ha una visione netta, chiara. Si è parlato anche di lui in questo caso come di animatore di un documento in vista di un dibattito a Orvieto. Matteo Orfini non è esattamente, diciamo così, nelle analisi, nelle sue posizioni su una tesi simile a quella di Walter Verini, e comunque ci spiegherà Matteo Orfini, che ringrazio e saluto, buongiorno. Buongiorno. Ci spiegherà anche lui il suo punto di vista, perché trovate dichiarazioni molto esplicite e nette in cui dice: no, io voglio semplicemente, non voglio fare correnti, non voglio con altri come me, come Roberto Gualtieri, sembrare che siamo colonnelli di qualcuno o di qualcun altro, voglio semplicemente parlare in termini espliciti, perché poi in questo partito, certo, ci sono degli errori, c'è chi ha degli errori e delle responsabilità, chi per esempio negli anni alle nostre spalle lo ha asservito, comunque lo ha messo molto sotto in posizione di subordinazione culturale nei confronti di un eccesso di neoliberismo, e ne abbiamo pagato il prezzo. Ecco, questo in sintesi estrema è quello che ho trovato attribuito a Orfini, che passa per D'Alemiano, ma non è questo il punto di fondo. Allora, Verini intanto ci fa capire bene quanto i giornali hanno esagerato, quanto c'è invece di giusto, cosa è legittimo attendersi da voi e dall'onorevole Voltroni nelle prossime settimane rispetto a Bersani che si candida. Ma i giornali a volte esagerano sempre, diceva 40 anni fa Adriano Celentano in Mondo in Mi-Settima. La sostanza qual è dal mio punto di vista? È che siamo un po' l'unico paese democratico nel quale davanti a uno sfascio evidente del governo, davanti a un fallimento della maggioranza che cade anche nei sondaggi, l'opposizione rimane al palo, è inchiodata, tutta l'opposizione peraltro, non cresce, non viene percepita come una possibile alternativa credibile. La domanda che io mi pongo è perché il mio partito, il Partito Democratico, non riesce a rappresentare al momento un'alternativa credibile. La risposta, una risposta possibile, non pretendiamo naturalmente che questa sia il Vangelo, una risposta possibile è perché il Partito Democratico ha perso un po' quella spinta che nel progetto originario c'era. Quando venne percepito in condizioni drammatiche, in quel momento ricordo che il gradimento del governo uscente, e non per colpa di Romano Prodi, ma dell'idea dell'Unione che era fu un fallimento politico, era il 22%. In quelle condizioni il Partito Democratico ottenne un 33,4 alle politiche e studiosi significativi come Diamanti, come Roberto Dalimonte, valutarono quel risultato come una performance straordinaria e prevedevano che il bacino potenziale, fu questa l'espressione usata dal professor Dalimonte sul Sole 24 Ore, sarebbe stato del 40%. E quel partito aveva un'ambizione: legarsi all'Italia, parlare all'Italia del futuro, non contro Berlusconi in quanto tale, ma per un progetto positivo. Ecco, l'idea di Veltroni e l'idea di alcuni di noi, molti di noi, è quella di aiutare il Partito Democratico, nel Partito Democratico, a riprendere quel cammino. Io penso che noi dobbiamo insieme fare più forte il Partito Democratico come baricentro di una possibile alternativa riformista, investendo su di noi, non andando a dire allora il Partito Democratico oggi deve fare le alleanze con Casini o con Di Pietro, i quali a loro volta dicono no, se c'è quello non ci sono io, e poi addirittura ipotizzare cerchi concentrici. Mi pare che anche ieri sera, ho letto un po' i giornali, il coordinamento abbia privilegiato un'impostazione che è condivisibile. Concentriamoci sui problemi dell'Italia e sulle proposte che il Partito Democratico deve poter trasmettere agli italiani, in un rapporto diretto, parlando a tutto lo stadio e non soltanto alla curva dei propri tifosi. Questa è l'ambizione originaria, all'epoca condivisa da tutti, io non ricordo dissensi su questa linea, erano tutti d'accordo, impostammo insieme la campagna elettorale. Ecco, riprendiamo quel cammino per fare più forte il Partito Democratico. Un'ultima cosa, io penso che la crisi del berlusconismo sia un processo ormai inevitabile. Berlusconi ha fallito perché non dà e non ha dato risposte quella maggioranza al governo del paese, ai problemi concreti dell'Italia. Ecco, noi dobbiamo su questo fare uno scatto. Io ho apprezzato il discorso di Bersani a Torino per quanto riguarda questa parte. Tra l'altro molte proposte sono un patrimonio comune, erano già contenute nel lavoro del governo Ombra della prima fase del PD. E ieri sera il coordinamento ha segnato un altro punto. I documenti che girano servono semplicemente a mettere a punto, non il congresso è finito, vedo che oggi qualcuno dice ma lo sappiamo, ma pensiamo che un partito significativo... È Rosy Bindi che dice con una certa ruvidezza che il congresso è finito, a piantatela. Sì, ma questo però ne posso dire, è un riflesso condizionato che apparteneva a momenti bui di partiti politici novecenteschi. Nel senso, quando qualcuno poneva problemi, diceva cose che magari non erano perfettamente in linea con il gruppo dirigente, si cominciava a dire ma si vuol dividere in un momento difficile, ma si fa il gioco dell'avversario, la famosa intelligenza col nemico di staliniana memoria, ma voi volete fare la scissione, ma qui si va verso i gruppi autonomi, balle. E credo che Walter Veltroni abbia non solo il diritto, ma dico il dovere, essendo stato, insomma, come noto, tra i principali fondatori di questo partito, il suo primo segretario, e ci ha sempre creduto a questa prospettiva, anche quando altri erano più dubbiosi, ha il diritto dovere di dire qual è la sua opinione e l'opinione da dare nel partito, con il partito, pensando di fare il bene del progetto del Partito Democratico, su come essere più rispondenti alle necessità dell'Italia, sapendo che noi non siamo un partito di sinistra, noi siamo un partito di centrosinistra che ha avuto ed ha l'ambizione di unire culture politiche riformiste, che ha l'ambizione di fare un progetto non per andare al governo. Noi non siamo nati per andare al governo tout court, noi siamo nati per, con l'ambizione di cambiare l'Italia e ovviamente dal governo, ma il governo è un mezzo, non è un fine. Credo di essermi spiegato, insomma. Chiarissimo, insomma, nei limiti del possibile, con molti caveat, però insomma è una rivendicazione del motivo per cui quel partito nacque e della coerenza del richiamo a quella forma, che è una forma che ha a che vedere con la scelta dei temi di fondo, con come ci si esercita la leadership e con le alleanze. E Orfini, di fronte a questo, giovani turchi, non giovani turchi, non mi interessano le formule, la questione di fondo e invece c'è un'impostazione che dice quella roba lì ci ha fatto nascere e in effetti non ha funzionato, prendiamo atto di quello che abbiamo di fronte a noi, andiamo avanti senza troppe divisioni e però quando si tratta di ribattere con formule diverse, più efficaci nelle vostre intenzioni, il nocciolo, la differenza, la distanza tra chi dice vocazione maggioritaria, si abbandona la vocazione maggioritaria, della risposta di chi la pensa come lei, invece il nocciolo qual è? Ma guardi, rispetto alle cose che ha detto Verini e alla sua domanda, tanto mi faccio salutare Verini perché noi, come dire, siamo spesso raccontati su fronti opposti nel dibattito interno, ma poi come siamo tutti impegnati nel tentativo di trovare una strada per risolvere il problema, cioè di come sconfiggere Berlusconi. Io sono anche d'accordo con molte delle cose che Walter ha detto, nel senso che il tema che noi oggi abbiamo di fronte è esattamente quello che di fronte alla crisi del governo Berlusconi, al calo oggettivo dei consensi, oggi noi abbiamo un paese che maggioritariamente non vuole più Berlusconi. L'effetto sull'opposizione, su tutte le forze dell'opposizione, se non quelle più fortemente caratterizzate da una vocazione antipolitica, non è certo o di una crescita esponenziale. E però il punto, ed è anche forse il vero punto di divisione, sta proprio qui, nel senso che, per come la vedo io, la crisi sostanziale del governo Berlusconi non è la crisi di una maggioranza politica, ma è la crisi di un sistema politico che si trasforma inevitabilmente, per come la stiamo vivendo, in una sfiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, che è frutto della ormai consapevolezza che il bipolarismo, per come noi l'abbiamo conosciuto in questi anni, la religione del maggioritario, l'idea che i problemi dell'Italia si potessero risolvere solo con i più maggiori poteri al Presidente del Consiglio, con una torsione presidenzialista, con partiti populisti e leaderistici, Non è più in grado di rispondere alle esigenze degli italiani, tant'è che in questo lungo quindicennio berlusconiano nessuna grande riforma vera è stata fatta. Siamo al paradosso che nonostante Berlusconi abbia un potere quasi assoluto in questa legislatura, si è trovato, voi vi ricorderete, all'inizio di questa legislatura si raccontava che eravamo finalmente nella situazione ideale di sistema, perché Berlusconi aveva una maggioranza amplissima nei due rami del Parlamento, aveva parlamentari grazie a una legge elettorale scandalosa nominati da lui e aveva un enorme potere mediatico e personale. Ciò nonostante nemmeno è riuscito a fare le riforme che servivano a salvarsi dai processi, cioè siamo al paradosso che questo sistema non è riuscito a garantire alcuna forma di cambiamento reale in questo paese. Di fronte a questa situazione è del tutto evidente che noi non possiamo interpretare la risposta che deve dare il Partito Democratico come un'ulteriore torsione nella direzione di una democrazia presidenziale. E quindi forse dovremmo, e questo poi l'oggetto vero della differenza di analisi tra di noi, rivedere alcune delle categorie con cui è cresciuta e si è fondata questa, diciamo, non certo esemplare Seconda Repubblica. Naturalmente fare questo significa non aver paura di dibatterne tra di noi. Io sono d'accordo con Verini che non è il tempo dei richiami all'ordine che fa la Bindi, bisogna semplicemente cercare di vivere questa discussione con insomma il garbo necessario nei rapporti reciproci e cercare di partire appunto dalla consapevolezza che la discussione in atto è dire come bloccare il Partito Democratico da quella soglia nei sondaggi che non riusciamo mai a sfondare. Ora, naturalmente, rispetto al giudizio sul passato, io intanto adesso non voglio litigare sui numeri, però anche il Partito Democratico al 22% non c'è mai stato, se non in qualche sondaggio malevolo che ci dava Berlusconi, che non prenderei ad esempio. Non penso neanche che il dibattito sia sulla vocazione maggioritaria. Ieri al coordinamento a cui ho partecipato e a cui faceva riferimento Verini, lo ha detto anche Veltroni, cioè che non ha più senso accapigliarsi sulla vocazione maggioritaria. È del tutto evidente che se noi vogliamo cacciare Berlusconi non possiamo andare alle elezioni da soli, ma questo è già avvenuto nel 2008, noi siamo andati alle elezioni con Di Pietro, non siamo andati da soli, e sappiamo quanto l'alleanza con Di Pietro sia stata problematica proprio per la cultura politica che quella forza ogni giorno, come dire, dimostra di avere. Noi dobbiamo semplicemente cercare di capire come costruire un progetto politico che serva a risolvere i problemi del paese e cercare di trovare delle formule, delle alleanze che consentano a quel progetto di diventare maggioritario nel paese. Questo naturalmente non significa che nessuno vuole rifare l'Unione, nessuno vuole, come è stato detto, altra sciocchezza. Io ho apprezzato l'immediata che Verini ha fatto al tema dei gruppi unici, esattamente come credo lui abbia apprezzato l'immediata smentita che è stata fatta da Bersani sull'idea che nelle liste del PD potessero essere candidati Ferrero e Di Liberto. Cioè, noi dobbiamo anche stare attenti a non farci giocare in casa da commentatori malevoli. È del tutto evidente che nessuno sta cercando di ricostruire formule di quella natura, però noi abbiamo il dovere di cercare di rendere effettivamente maggioritaria quella parte di forze del paese che non vogliono più Berlusconi, che sulla carta lo sono, perché oggi il Berlusconi è contestato dal centro, dal destra e da sinistra. Noi dobbiamo trovare uno schema che eviti che, qualora si precipitasse nelle elezioni, Berlusconi, 30% dei voti, diciamo, si trovi ancora una volta a governare il paese con una maggioranza ancora più blindata e con un impianto ancora più avversivo. Questo oggi è la domanda che oggi ci fanno. Allora, io sono stato, come avete ascoltato, attentissimo e rigorosissimo, non solo nell'introduzione, come mi sono sforzato di avere guanti bianchi, ma ho fatto parlare entrambi. Posso dare semplicemente una impressione, siccome conosco e apprezzo il modo in cui fate politica, la questione è che l'eccesso, da una parte è comprensibile, quando si sta in un partito in queste condizioni, di fronte al governo, la maggioranza che va a pezzi, uno dice tentiamo di fare legione tebana, di andare avanti e di guadagnare. Però sapete meglio di me che le leggi della politica comunicata nello stile carismatico populista della temperia in cui viviamo, di fronte a un confronto corretto, educato e anche, come giusto, cauto nell'indicare veramente con grande nettezza le differenze, rischia di far passare i messaggi inevitabilmente del sindaco di Firenze, come quelli di oggi, l'intervista che c'è su Repubblica: candidiamo una donna a premier, diffido di questo, diffido di quello, come una cosa fresca, fragrante, come un pezzo di pane appena uscito dal forno, che la gente capisce. Temo di dover dire, dicono i sondaggi, la gente del PD, del vostro partito, mentre voi un po' rischiate di apparire, e capisco che è un prezzo talvolta da pagare, come dei officianti di vecchi riti. Allora, siccome questa trasmissione l'abbiamo fatta per capire come la pensa il nostro ascoltatore, io spero che poi più avanti, quando tornerò a farvi vedere le domande, parliate anche un po' più apertamente, perché altrimenti io credo che i populisti vincono in ogni partito, sapete, questa è la cosa che capita oramai da un po' di anni a questa parte, e quindi chi ha le idee più chiare nel merito rischia, se non è abbastanza efficace nel sintetizzare, il che non significa che poi poi non sia serio nel tradurle in realtà, però rischia di stare a casa e rischia di vincere da tutte le parti chi picchia i pugni, più promette e non mantiene, insomma, ecco, Di Pietro da una parte, Berlusconi dall'altra, eccetera eccetera. Eccoci tornati in studio. Devo dire che non sono molto soddisfatto delle reazioni del pubblico oggi sugli SMS. Questa volta non sono tanto i miei motivi di insoddisfazione epiteti o giudizi su di me, che sono comunque sacrosanti e che, sapete, accetto sempre, perché il pubblico per me è un grande, è una guida, anche quando poi mi scalcia, perché vuol dire che comunque c'è una dialettica aperta. Però io ho l'obbligo di dire a Verini e Orfini che i più dei nostri ascoltatori dicono ma non sono molto convinti, per così dire, cioè capiscono il garbo e però dall'altra parte dicono quello che ci sembra emergere è una distinzione molto netta di impostazione di cultura politica, e dall'altra quindi se a unirvi è certo l'appartenenza a un partito, ma più il giudizio, l'anti-berlusconismo rispetto a chi dice... È evidente che c'è chi propone di rimettere al centro Parlamento, partiti articolati e molto radicati, e c'è chi dall'altra dice no, la caratteristica del populismo è da rifiutare, ma quella invece di più movimento, meno parlamentarismo, eccetera eccetera, non è da rifiutare. Quindi il nostro pubblico vorrebbe capire un pochino meglio, per così dire, perché altrimenti dice in punta di piedi noi diciamo viva Renzi. Questo io immaginavo che fosse così, però i messaggi poi mi hanno dato, gli SMS, abbastanza ragione. Sentiamo qualche telefonata, cominciamo con Daniele dalla provincia di Mantova. Come la pensa Daniele? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora, glielo dico, io sono segretario di una sezione del PD della Lombardia, che è una delle più grosse percentualmente, è una piccola, come posso dire, villaggio di Asterix in Lombardia, e tocco con mano quanto tutti i giorni c'è questa difficoltà a rapportarsi con quello che è il ceto politico nazionale. Noi cerchiamo veramente, c'è una passione in questa zona, è una zona un po' particolare, è quel pezzettino che c'è sotto il Po, è una storia un po' particolare, e tutto il giorno la difficoltà è quando fai politica sono i messaggi che arrivano a livello nazionale. Quanto ha morso lì recentemente la crescita della Lega, se posso chiedere a Daniele? Sì, ecco, vede, noi in questa zona qua, proprio perché storicamente c'è un fortissimo radicamento sul territorio, ancora si tiene duro. Tenga conto che nella zona dove abito io il PD è al 55%, la Lega ancora è passata come un successo al 14%, però ha rubato sostanzialmente tutti i voti alla PDL. Ed è quello che, ad esempio, io capisco che chi non abita al nord fa fatica a capire, la PDL qui ha un'erosione di voti dalla Lega incredibile, e il PD, mancando di quella parole d'ordine che comunque Veltroni, con tutti i suoi difetti, era riuscito a mandare in fibrillazione un po' l'elettorato, avevamo recuperato tantissimi voti. Adesso il nemico numero uno non è tanto, parlo del centro-sinistra, della Lega o della PDL. La Lega sicuramente è l'avversario più importante, perché è un partito che sembra di sinistra ma ha parole d'ordine di destra, ma è l'astensionismo, non vengono più a votare, manca quel riferimento forte, quella persona che ti fa sognare, quei valori che per la sinistra, per il centro-sinistra, dopo da noi si parla di Don Primo Mazzolari, a Bozzo parliamo del Mantovano, sono figure che facevano sognare, che facevano dire c'è un'altra maniera di intendere la politica. Grazie a Daniele della provincia di Mantova. Questo tema, e l'abbiamo un po' apposta introdotto per sentire Verini e Orfini che ne pensano, perché la questione del nord, da quello che si vede nei sondaggi, la questione del nord nell'effetto Lega su PDL, se le difficoltà di Berlusconi rimangono prima del voto, quelle di adesso, quello che nei sondaggi si legge è quello che vede, che diceva Daniele da Mantova. Io devo dire che andando alla festa del PD qui a Milano sabato scorso, dovevo fare un dibattito eccetera eccetera, mi sono divertito un po', fa anche il mio mestiere, a provocare, a sentire in giro qual era la reazione del corpo, la base del partito. Non ho nessuna ambizione di interpretarla, ma insomma, quando poi abbiamo affrontato la questione, possibile mai che non ci fosse niente di meglio da lanciare? E lo dico con grandissimo rispetto per Boeri, per Onida, per, ma insomma, l'impressione che viene a Milano, città che comunque ha la sua importanza dove, rispetto a tutto il nord, è quello di esterni, intellettuali, radical chic, ma insomma che proprio il partito in quanto tale non c'è. con personaggi e ambizioni, con l'ambizione di sfidare il centrodestra. Quello che diceva dalla provincia di Mantova adesso il nostro ascoltatore è secondo me una componente aggiuntiva da tenere presente. Allora, la domanda che io faccio a Verini e a Orfini, un minuto questa volta, la risposta a testa non di più, quindi no, senza troppo dilungarsi. Questo aspetto della difficoltà precisa nella base del centrodestra, delle promesse non mantenute e della Lega nel nord che mangia in testa e sotto i piedi, per così dire, al centrodestra. Ecco, su questo fate capire se la vostra risposta, quella del partito, quella delle diverse aree del partito, come è a questa domanda di quelli che chiamano e dicono: ma noi che ancora prendiamo i voti, come diavolo facciamo a difenderci? Verini. Io credo che sia un tema centrale. Diciamo, il Partito Democratico, ma su questo credo che siamo tutti d'accordo, nacque anche per superare alcune arretratezze, diciamo, che la vecchia cultura politica della sinistra aveva, i temi della sicurezza visti in un certo modo, i temi del rapporto tra il profitto e la redistribuzione. Non c'è giustizia sociale, non c'è redistribuzione del reddito se non c'è profitto. Impresa e lavoro devono essere alleati, non sono gli imprenditori nemici dei lavoratori, altrimenti si usano categorie del passato. Il Nord si aggredisce positivamente anche da questo punto di vista. Il Partito Democratico il 2008 diede dei segnali di grande interesse in questo senso. Cominciò questo cammino di concretezza e di superamento di visioni ideologiche, ma questo lo dobbiamo fare al di là delle nostalgie, lo dico tra virgolette, sul 2008, sul tempo passato. Pongo un problema: Pomigliano è profondo sud e non profondo nord, d'accordo, ma anche lì Marchionne lancia una sfida. Io credo che i sindacati tutti insieme la dovrebbero raccogliere. Ma dico anche che sarebbe più facile raccogliere quella sfida e magari combattere alcune estremizzazioni nelle relazioni sindacali, alcune visioni che rischiano di rompere una normale gestione delle relazioni sindacali, un rispetto dei diritti dei lavoratori. Forse il sindacato avrebbe potuto e potrebbe fare meglio la sua parte se fosse stato esso stesso, per esempio, a denunciare l'assenteismo, a denunciare i casi dove nei quali non si fa l'interesse dell'azienda da parte di frange di lavoratori. Chiarissimo, quindi Verini dice produttività e su quello il sindacato dia una mano, quindi botta alla fioma. Chiaro, la metto io come botta alla fioma per renderlo più esplicito a chi è a casa. Da questo punto di vista Orfini che dice? Ma io penso una cosa un pochino diversa, nel senso che, diciamo, il tema della produttività è un tema che indubbiamente il sistema paese si deve porre, però scaricare questo tema esclusivamente sul lavoro è un errore di prospettiva, nel senso che c'è un tema della produttività degli del capitale, quindi degli investimenti delle imprese, delle infrastrutture. Insomma, noi dovremmo guardare la produttività complessiva del sistema e anche renderci conto che in questi ultimi 20 anni in tutti i paesi occidentali c'è stato il più gigantesco spostamento di ricchezza dai salari ai profitti, cioè i redditi da lavoro sono 6 del 4%, quelli da capitale del 44%, cioè quindi un partito di centrosinistra deve ripartire da questo dato, e i voti che noi abbiamo perso, che non riusciamo a recuperare e che prende la Lega, come potrebbe spiegare il nostro segretario di sezione che ha parlato prima, sono esattamente i voti delle persone più deboli nella società, più umili, i lavoratori, le persone che in questo momento sono in difficoltà. Noi forse, insomma, da lì dobbiamo ripartire, e voglio dire, non è che si può pensare che la soluzione sia nel ridare un sogno a questa gente, perché questa è una risposta berlusconiana. Ok, cioè, quindi come vedete nelle parole di Orfini rispetto a quelle di Verini, sa un punto concreto: nord e produttività, si vede che la differenza c'è, lasciatemelo dire da osservatore, perché questa di Orfini, analisi della ripartizione del reddito tra le diverse componenti, lavoro e capitale, è un'analisi di sinistra, vogliamo chiamarla socialdemocratica, eccetera, però insomma di sinistra, che dice il nostro compito è quello di acchiappare chi ha poco reddito e invece di renderlo quasi colpevolmente protagonista di un cambio generale dobbiamo difenderlo innanzitutto. Dall'altra parte una risposta che dice: no, qui c'è una società italiana che va in tutto il suo complesso riarticolata secondo la produttività, e quindi sbaglia il sindacato se concepisce la sua funzione solo come un no. Ha detto solo come un no, non è che dice la fioma adesso si deve mettere agli ordini della Fiat, però insomma, come vedete, la distinzione c'è E come se c'è quando andiamo al concreto. Eccoci tornati in studio, le diverse anime del PD. Abbiamo sentito sul Nord produttività da Verini e da Orfini. Sentiamo un altro ascoltatore rapido che ci chiama da Milano. Marco, come la pensa Marco? Pronto, buongiorno. Allora, io sono di sinistra da sempre e devo dire che sono veramente esterrefatto dal fatto che sia riemerso un Veltroni che pensavamo fosse, se ne fosse andato o avesse deciso di andarsene. Io sono con seguo molto il discorso e approvo quello che ha detto Renzi. La nostra dirigenza PD è vecchia, è da rottamare, devono andare a casa tutti, ci vuole un cambio generazionale. Questa dirigenza non sa esattamente come sta l'Italia, come stanno i lavoratori. Loro stanno nel loro bel palazzo, prendono il loro bello stipendio, però non sono mai venuti a vedere o a girare le piazze o sentire quelle che è la base del. Ok, quindi Marco è rigenerazione via tutti. Non ho capito se la cosa riguarda solo Beltroni oppure riguarda un po' tutti, compreso Bersani, eccetera, eccetera. Però insomma il giudizio è netto. Ha ragione Renzi. Sentiamo allora due, diciamo, osservatori e protagonisti a propria volta di lungo corso. E quindi abbiamo chiesto un'opinione finale in tre minuti, due minuti e mezzo a testa. Cominciamo a due di questi osservatori che a me sono molto cari, a dire la verità. Il primo è Claudio Velardi, che è amministratore delegato e fondatore di Reti e che insomma ha passato una certa vita a organizzare cultura, politica, amministrazione, prima poi di fare anche il suo mestiere, ma nella sinistra, non è che lo facesse sulla luna. Quindi saluto Claudio Velardi. Buongiorno a voi e grazie delle belle parole. Ma no, che belle parole, Claudio. E la cosa che ti chiedo è l'impressione che ti fa allo stato attuale, di fronte ai sondaggi, Berlusconi che cade, tutto questo che vediamo, questo confronto così nel PD qual è? Dovessi dare in due pillole un consiglio a loro, ma spiegare anche a noi come stanno messe le cose. Io direi questo, che Veltroni fondamentalmente ha ragione nel dipingere, Veltroni e i veltroniani, nel dipingere questo partito a vocazione maggioritaria, però Veltroni è stato sconfitto quando nel 2008 ha fatto un errore capitale, e cioè si è alleato con Di Pietro, venendo meno a quella indicazione strategica che lui stesso aveva dato. È stato costretto a dimettersi per questo, perché il giorno dopo l'opposizione è stata presa nelle mani da Di Pietro e da tutti quanti i radicali. Quindi adesso il suo, diciamo, eventuale ritorno sulla scena dovrebbe segnare con chiarezza un punto di distanza dalla prospettiva della sinistra radicale. D'Alema e Bersani hanno torto, perché hanno una visione pessimistica e depressa del futuro della sinistra, cioè non hanno ambizioni, cioè non hanno l'ambizione di creare un partito, appunto, tendenzialmente a vocazione maggioritaria, però fanno politica. E quindi stanno cercando, diciamo, in queste settimane, in questi mesi, di riannodare un poco i fili di questa sinistra dispersa e disorganizzata. Quale sarebbe la soluzione, diciamo, per queste due prospettive che sono entrambi incapaci di disegnare un futuro? Grosso modo è vero, è quella che disegna Renzi, e cioè a dire bisogna che tutto il gruppo dirigente se ne vada a casa e bisogna ripartire da idee e programmi nuovi. Però qui casca l'asino, perché i dirigenti nuovi non si fanno vivi. Quando si manifestano, un attimo dopo vengono cooptati e quindi perdono la voglia di cacciare i dirigenti vecchi. Io mi sono letto in questi giorni, ed è una bellissima lettura, anche se ponderosa, questo libro di memorie di Blair. Lungo tutto quanto il libro, quei 15 anni in cui Blair ha governato l'Inghilterra, ci sono sempre le battaglie incessanti che lui ha fatto dentro il partito, facendo fuori una vecchia cultura e i vecchi gruppi dirigenti del Labour, e non facendo prigionieri, perché così sono le battaglie nei partiti. Sono molto d'accordo con quello che sta dicendo Claudio Velardi. Così si fa. Secondo punto, e concludo, sì. Oscar. Secondo punto riguarda i programmi. Già tu hai fatto venire fuori qualcosa quando poi Orfini e Verini si sono un po' divisi, per esempio sulla faccenda da Fiat e così via. Io vorrei che su tutto si manifestassero queste differenze. Esatto. Chiarissimo, chiarissimo. Io sono molto d'accordo comunque che dentro i partiti bisogna combattere più apertamente. Vedete i due fratelli Miliband in Gran Bretagna, uno più blairista e l'altro più browniano? Quella è una grande tradizione, e chi non fa così coopta e tutto diventa melassa. Questo è il punto. E anche la Serracchiani sembra una vecchia dirigente di 40 anni fa, capite? E questo è quello che voglio dire, lo dico con rispetto per tutti. Invece Caldarola ieri scriveva, sto parlando di Giuseppe Caldarola, giornalista, editorialista, riformista, insomma anche lui a sinistra come giornalista, ma da decenni, quindi sa di quel che parla. Ieri diceva: insomma sì, però Bersani può fare questo che può fare, che gli si può chiedere, ed è depressa questa posizione. È d'accordo con Velardi, Caldarola, o come replica? Io sono d'accordo con Claudio innanzitutto sulla data di morte del partito a vocazione maggioritaria, che in effetti muore il giorno in cui Di Pietro si allea con Di Pietro. Questo alcuni di noi l'hanno detto, Claudio e io l'abbiamo detto in tempo reale. Non credo molto alla soluzione Renzi, perché diciamo l'accantonamento del gruppo dirigente diciamo è un tema che esiste solo se c'è una fervida battaglia di rinnovamento come quella che ha fatto Tony Blair. In America, per dirla tutta, nessuno si sognò di accantonare Ted Kennedy pur vecchio, per la ragione elementare che rappresentava una linea politica. Per questo non sono stupito dalla presenza di questo gruppo dirigente. Dal punto di vista più generale volevo dire una sola cosa. Volevo dire, noi abbiamo vinto, noi centrosinistra, le elezioni solo quando abbiamo trovato una formula che tenesse insieme questo è un fatto principali e questo è un fatto. E quindi lei dice, in qualche maniera, sia pure aggiornata, quella formula potrebbe in qualche maniera ripresentare la risposta. Io devo a Caldarola un prossimo invito, perché gli ha veramente dato troppo poco tempo alla fine, perché come al solito ci si protrae. Avete visto, con Verini e Orfini le differenze poi emergono. Ci vorrebbe che anche loro le manifestassero senza un eccesso di demagogia, ma con meno, diciamo, guanti gialli. Non credo che ci si esporrebbe all'accusa di fare un favore a Berlusconi facendo questo. Forse nei sondaggi si prenderebbero più voti. Comunque questo è mestiere vostro, perché io ne faccio un altro. Io spero che poi nasca un vero partito liberal democratico che porta chi la pensa come me ad avere meno tasse, uno stato più leggero, e non lo prometta solo senza farlo. Grazie a Walter Verini e a Matteo Orfini, grazie anche a Giuseppe Caldarola e a Claudio Velardi, grazie a Franco Piantanita che assiste in diretta, Alessandro Marco Tulli in redazione e in regia, colpa mia perché ho dimenticato il nome, linea al giornale radio.